Io in effetti pensavo di co su cosa facciamo la meditazione oggi, no? Perché e spesso anche se chi di voi si sta abituando a fare questa meditazione come orazione, come dialogo con Gesù, a volte lo farà senza fatica così. Semplicemente raccontando le cose della sua vita a Gesù, però altre volte se vogliamo anche ascoltare lui e capire da lui qualche particolare. Se non fa troppo caldo chiudo anche la finestra, ma sufficiente perché poi siccome parlo un po' piano, il rumore della strada ci distrae, almeno mi distrae perché. Allora, volendo invece far parlare lui, lui può parlare nel nostro cuore come vuole, Non è che abbiamo bisogno di. Però lo facilitiamo se ascoltiamo la sua parola nella Bibbia, no? E forse in modo particolare nel Vangelo, perché proprio nel Vangelo è Gesù in carne ed ossa che fa delle cose che ci parla, insomma, che parla con i personaggi del Vangelo, nei quali noi ci possiamo un po' riconoscere, no? Anzi, un po' o tanto o del tutto, perché a loro fa piacere, ai personaggi del Vangelo, perché non si, cioè, si considerano privilegiati per aver avuto l'opportunità di incontrare Gesù dal vivo, nel senso guardandolo negli occhi e ascoltando la sua voce. Però loro sono contenti di essere finiti, alcuni di loro, perlomeno non tutti, no? Nel Vangelo e noi, lungo le varie generazioni che si susseguono, potendo leggere il Vangelo, ci possiamo identificare con loro, no? Perché loro sanno bene, Giacomo, Giovanni, Andrea, Marta, Maria, Maddalena, eccetera, no? Che Susanna, che sanno bene che l'incontro di Gesù con ciascuno di loro e deve aiutare l'incontro di ciascuno di noi con Gesù, quindi è esemplare, no? Noi ci possiamo mettere dentro a questi incontri di Gesù con le persone del suo tempo, perché Gesù è di tutti i tempi, no? È qui presente in mezzo a noi, no? E allora pensando che Vangelo possiamo prendere per la meditazione di oggi. Avevo varie possibilità, anche il Vangelo del giorno oppure quello di domani, però ho pensato, siccome voi vi state incontrando oggi, se non erro per la prima volta, no, perlomeno in modo così, dopo le attività dell'estate, dopo la GMG, e a rivedere le diapositive, i filmini, insomma, di quella bellissima esperienza, e a fare una meravigliosa merenda, e cominciate alcuni incontri che farete lungo questi sabati di questo anno. Allora ho pensato, questo è un inizio, il vostro inizio, e allora com'è stato l'inizio diciamo, di Gesù con i suoi amici, con i suoi discepoli? E allora mi è venuta in mente la descrizione forse più nota, no, degli inizi di Gesù, che è quella di San Giovanni. E fra l'altro nel rileggerla notavo subito una caratteristica che possiamo mettere subito in evidenza, che sono inizi con una caratteristica molto familiare, se volete, familiare e di amicizia, familiare e di amicizia. Ma tutto comincia col fatto che Giovanni Battista sta battezzando, poi parla e i farisei anche vanno, e gli erodiani anche vanno dai giudei, vanno da lui a dirgli: ma tu chi sei? Sei il Messia? Lui dice no. E aveva dei discepoli che lo seguivano anche, fra cui c'era Giovanni che poi diventa l'apostolo, e anche Giacomo, anche Pietro, anche Andrea. E lui, Giovanni, a un certo punto dice di Gesù, questo. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questa frase probabilmente era una frase così che si poteva usare, che si usava, ma ho pensato che Giovanni il Battista è proprio parente di Gesù, cioè Elisabetta e Maria, le madri, sono parenti, no? Il Vangelo dice parenti, poi noi spesso diciamo cugina, non sappiamo, comunque parenti, sì, cugine. E quindi anche Giovanni e Gesù sono parenti e quindi sicuramente si sono incontrati in quei 30 anni di cui non sappiamo nulla. E infatti anche i Vangeli apocrifi e poi i pittori fanno un sacco di scene dove ci sono Gesù bambino con Giovanni Battista che giocano. Giovanni Battista c'ha già la croce in mano, che poi è un po' poco realistico, no? Però probabilmente sì che si sono incontrati, no? E forse chissà se questa frase non sono degno di slecciare il legaccio del sandalo, magari Giovannino, che era un po' più grande, gli insegnava al bambino ad allacciarsi le scapole, o insomma qualcosa di questo tipo, oppure Gesù che gli chiede scusa, mi aiuti? Sono parenti, quindi comincia, Gesù viene annunciato da un suo cugino, diciamo così, no? Che poi ha una missione speciale, no? Per cui questo però dà una dimensione familiare già all'inizio. Infatti Giovanni dice: io ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Poi dice a un certo punto: ho testimoniato che questo è il Figlio di Dio. Vabbè, quindi lui dà la sua testimonianza su Gesù. Anche se qui nel Vangelo di Giovanni non si dice che sono parenti, ma noi lo sappiamo da San Luca. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava. E vedete che Gesù, sapete, questa scena avviene, lo dice il Vangelo di Giovanni a un certo punto, prima lo diceva, questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Betania. Da San Luca sappiamo che a Betania abitavano i tre fratelli, no? Marta, Maria e Lazzaro, che evidentemente erano amici di Gesù, erano forse amici di famiglia, forse anche loro parenti, non lo sappiamo. Io mi immagino che Gesù abitasse da loro, perché sa come fa tutti i giorni a passare lì, da qualche parte abitava, no? E forse abita da loro. Il giorno dopo passa di nuovo, ecco, Giovanni passa e Gesù passava e dice: ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. C'ha due discepoli lì accanto a lui, che poi noi scopriamo il nome di solo di uno, Andrea. E l'altro noi pensiamo che sia Giovanni, perché Giovanni nel suo Vangelo non si nomina mai a se stesso, no? Mai, non dice mai Giovanni, mai. Alla fine del Vangelo si dice i due figli di Zebedeo che vanno a pescare con Pietro. Oppure a partire dal capitolo 13 compare un misterioso discepolo che Gesù amava e molti pensano che sia lui, cioè non si nomina mai, per cui ci sono questi due discepoli. Sentendolo parlare così seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano disse loro: che cosa cercate? Gli risposero: Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? E disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio, più o meno l'ora della vostra merenda di oggi, no? Ma in effetti io penso che, come è normale, come nell'ospitalità, quindi Gesù avrà offerto qualcosa o Marta e Maria o sua madre Maria che stava con lui, no? Avrà offerto qualcosa a questi due discepoli che avevano avuto fame, come spesso hanno i ragazzi giovani, insomma. E quindi possiamo dire così che tutta la storia della salvezza, tutta la storia della redenzione operata da Gesù comincia con una merenda. È così, comincia con una merenda. Quindi voi avete cominciato bene oggi, no? Comincia con un cugino che dice: guardate che quello è un tipo in gamba, no? Io se fossi in voi lo seguirei. E questi due giovani che vanno da lui dicono: senti, ma ecco, ti vorremmo conoscere, che fai, dove abiti, chi sei, dove abiti vuol dire anche chi sei, no? perché dalla casa, soprattutto nella società di allora, si capiva appunto di che famiglia sei e che lavoro fai. E fra l'altro a me piace, quando leggo questa domanda di Gesù nel Vangelo, cioè scusate, dei discepoli a Gesù, dove dimori? E Gesù che dice venite e vedrete, è molto bella, dice dai venite a casa, venite a casa, vi invito a casa mia. E mi viene in mente che per chi di voi forse ci sarà sicuramente qualcuna che ha fatto il liceo classico o lo sta facendo, e allora nel greco questa domanda, cioè questo verbo, no, dove abiti, usa un verbo che poi dopo Gesù nel Vangelo di Giovanni usa altre volte, il verbo meno, che significa in latino è ubi manes, cioè che in italiano è diventato il rimani, no? Dove rimani? Dove abiti, dove dimori? Poi Gesù lo usa, questo stesso verbo, quando svela che chi mangia la sua carne e il suo sangue rimane in me, e allora viene tradotto così più avanti, ma vuol dire ha dimora in me e io dimoro in lui, abita in me e io abito in lui. Io penso che sia come se Gesù avesse detto adesso questa vostra domanda, Andrea e Giovanni, è molto interessante, però intanto io vi rispondo subito quello che volete voi, vi faccio vedere dove c'è la mia casa e vi faccio vedere come cucina bene mia mamma, o più avanti vi spiegherò che io abito, che io posso abitare nel vostro cuore, no? E che voi potete abitare in me, no? Infatti poi quando dopo 3 anni, poco prima di morire sulla croce nell'ultima cena, e Gesù usa ancora questo verbo quando dice un famoso discorso della vite di tralci, cioè rimanete nel mio amore, no? Cioè abitate, dimorate nel mio amore. Se voi, quando insomma, se rileggiamo il capitolo 15 di San Giovanni, tutta quella discorso sulla vite e i tralci, io sono la vite vera, il padre mio è l'agricoltore, e rimanete in me e io in voi, capite? Ecco, c'è una, la risposta di Gesù è dire io abito adesso a Betania e quindi possiamo fare merenda insieme, e rimasero tutto il giorno con lui, però poi vi spiegherò che abito in voi quando voi mangiate la mia carne e il mio sangue e voi cominciate ad abitare in me. Quindi veramente la vita cristiana, la vita in Cristo è un grande mistero bellissimo, in cui noi siamo dentro al suo cuore e lui è dentro al nostro, no? Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me, cioè se non abitate in me, se non dimorate in me. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. E poi c'è il grande discorso sull'amore, no? Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Pensate che Gesù, cioè noi, nella teologia si spiega che, cioè, l'amore del Padre per il Figlio, Gesù, è un amore pazzesco, no? Infinito, inimmaginabile. Un amore così grande che poi è lo Spirito Santo. Quindi, e Gesù dice, io vi amo così. Quindi non dobbiamo mai dubitare dell'amore di Gesù per noi, che è un amore infinito che non viene mai meno. Non è che lui ci ama perché ci comportiamo bene, lui ci ama perché ci ama, però ci chiede di rimanere in questo amore per dare frutto, no? Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Ma torniamo all'inizio. Cosa succede dopo la merenda? La merenda era così buona, cioè lo stare con Gesù quel giorno era così bello, che come sicuramente è successo con voi oggi, no? Siete molto contenti di stare insieme, di divertirvi, di conoscere, di volervi bene, di ricordare i momenti belli della giornata mondiale della gioventù e anche di rinnovare i propositi che avete fatto lì, il desiderio, che viene voglia di dirlo alle persone a cui volete bene, no? Di dirlo alle amiche. E così è successo anche a quei primi due. Loro, subito dopo, dice l'evangelista, uno dei due che aveva udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone. Allora, questo per primo, che cosa vuol dire secondo me? Che i due, Andrea e Giovanni, hanno detto ma questo è fantastico, qui abbiamo trovato il paradiso, abbiamo trovato il Messia, abbiamo trovato colui che doveva venire, stare con lui questo pomeriggio è stato così bello, ha risposto alle nostre domande, ai nostri dubbi, li ha chiariti, insomma ci ha conquistati con il suo amore. Sai che questo lo dobbiamo dire subito a Pietro, perché sappiamo che Pietro ci tiene moltissimo, sperava di riuscire a vedere il Messia. Allora si sono detti, il primo che lo trova glielo dice subito, no? E il primo è stato Andrea, è arrivato prima Andrea. Allora egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse, abbiamo trovato il Messia, cioè come il Papa Francesco dice a volte che la cosa più importante è il primo annuncio, e bisogna ripeterlo tante volte, cioè più che tante conseguenze dire guardate che alla gente, che ma anche a noi stessi, a dircela, guardate che il figlio di Dio si è fatto uomo, è nel seno di una donna, di Maria, è venuto per amarci, è andato sulla croce, ha dato la vita per noi, questa è la cosa più importante di tutte, no? E questo si può dire in poche parole. E pensate che a volte le persone hanno bisogno di riascoltare questo annuncio essenziale, che viene chiamato tecnicamente il kerigma, eh? Vabbè, è il primo annuncio, e loro hanno fatto così, poche parole, eh? In latino addirittura sono solo due, in venimus messiam, non ho presente quante sono in greco, ma insomma, che poi è l'originale, no, due o tre, insomma, comunque abbiamo trovato il Messia. In italiano sono quattro, ma insomma siamo lì. È essenziale che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù e lo porta proprio da Gesù, no? Te lo presento io, te lo faccio conoscere. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse, tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Ci immaginiamo Pietro, no? Sentirsi, riconoscere, questo uomo mi conosce, conosce anche la mia, conosce anche mio padre, figlio di Giovanni, conosce da dove vengo, la mia genealogia, no? E quindi vuol dire mi conosce proprio nell'intimo, mi conosce nella mia natura, che è unica. Il nome significa tu sei unico, ma Gesù mi conosce così. Quindi questo sarà stato molto, molto colpito Pietro da questo primo incontro con Gesù. Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea, trovò Filippo e gli disse seguimi. Allora qui secondo me c'è un altro trucco di Giovanni, quindi questo ragazzo quando scrive il Vangelo non vuole mettersi tanto in mostra. Lui dice Filippo era di Bethsaida, dalla città di Andrea e di Pietro, poi dagli altri Vangeli sappiamo che è anche la città di Giovanni e di Giacomo. Che erano soci nella pesca, quindi questi qui si conoscono molto bene fin da giovani, no? Lavorano insieme e insieme sono andati a fare i discepoli di Giovanni Battista, no? Si vede che era gente che aveva molta voglia di fare qualcosa di grande nella loro vita, no? E allora io penso che Andrea ha chiamato Pietro e Giovanni ha chiamato l'amico Filippo. Vedete che la dimensione della famiglia e dell'amicizia. Il fratello chiama il fratello e l'amico chiama l'amico. E Qui dice, quindi no, no, dice Gesù trovò Filippo, secondo me gliel'hanno portato, ma comunque, e gli disse seguimi. Filippo era di Betsaida. Filippo trovò Natanaele e gli disse abbiamo, ecco, Filippo anche va dall'altra, cioè l'amico ha chiamato l'amico e allora l'amico chiama l'amico. Filippo trovò Natanaele e gli disse abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazareth. Ha detto troppe parole, no? Infatti esagero, è scherzo anche, ma infatti Natanaele lo festeggiavamo un mese fa, oggi è il 24 settembre, il 24 di agosto, quando tutte siete in vacanza e quindi non ci si vede, è la festa di San Bartolomeo, che è un altro nome di Natanaele, è lo stesso personaggio. Se qualcuna di voi, interrompiamo un attimo il racconto del Vangelo, raccontasse anche la sua storia di come è arrivata qua, non so, probabilmente c'è una storia di, o di famiglia o di amicizia, no? Una sorella, insomma un genitore, oppure un'amica che... pensate che ieri io ho avuto una bella esperienza, perché sono stato invitato a Vercelli, qualcuno di voi lo sa, a fare una serata sul mio libro Sorpresi dall'amore, che sono proprio racconti, fra l'altro ce n'è uno proprio su Natale, racconti dei personaggi che incontrano Gesù. Ma la cosa che mi ha colpito è che tutta questa cosa, una cosa bella, perché poi io non conoscevo nessuno lì, però loro, cioè il giornale locale ha fatto diversi articoli preparando questo evento, e in effetti alla fine c'era un bel numero di persone. Però tutto nasceva da cosa? Da una persona che io conosco, che conosce questo libro, che è nata lì, poi è finita a Verona, le storie della vita l'hanno portata a Verona, il matrimonio, i figli, che insomma il lavoro del marito. Però ha mantenuto qualche contatto, all'inizio un po' rado, poi ultimamente è tornata agli incontri con i compagni di classe. E in effetti ha trovato una compagna di classe che... e gli ha fatto vedere il libro, no? e questa compagna di classe gli è piaciuto, e siccome ha a che vedere con questo giornale, l'ha fatto conoscere ad altri, gli è piaciuto e hanno parlato. E mi piace vedere questo collegamento, no? Dell'amicizia. La compagna di classe, sono già persone grandi, sono già nonne, ecco, per dire, queste signore, ma dopo tanti anni... l'amicizia della compagna di banco addirittura, no? Che diventa occasione per parlare di Gesù, in questo caso attraverso un libro, e che poi moltiplica, perché senz'altro questa aveva la possibilità di invitarmi, e poi ha invitato molte persone che hanno sentito parlare di Gesù attraverso questo libro, no? Alla fine i legami di famiglia o i legami di amicizia sono il canale attraverso il quale più frequentemente Gesù può riuscire a farsi conoscere. E in effetti io vorrei dirvi che però non è che sempre va tutto liscio, no? A volte anche il legame di parentela, di Gesù anche stesso lo dice, magari proprio nella stessa casa ci sono persone che mi seguono, persone che non mi seguono. E qui i primi subito vanno, no? Pietro e Filippo vanno subito da Gesù, e invece Filippo comincia a trovare qualche difficoltà in Natanaele, no? Che è un intellettuale, e quindi ha studiato, e quindi dice Natanaele gli disse ma da Nazareth può venire qualcosa di buono? E si vede che è un'altra città della loro zona, e ci sono anche rivalità, diciamo così, noi diciamo campanilistiche, ma allora non avevano i campanili, e quindi non si può dire per loro, no? Cioè rivalità di città vicine. Filippo però, Filippo ha imparato da Gesù, si vede che si sono raccontati la storia E quindi per superare questa difficoltà di Natanaele, dice no, tu mi dici di Nazareth, perché vedete, quando uno aveva studiato la Sacra Scrittura, Nazareth non era mai nominata nella Sacra Scrittura. E quindi loro, per esempio, sapevano, ricordate i magi che vanno da Erode, sapevano che da Betlemme sarebbe nato, ma Nazareth non è mai citata, e poi è un luogo sperduto della Galilea, un luogo un po' infido, perché lì la gente si mescolava con gente di altre culture, di altre religioni, di altre razze. Da Nazareth può venire qualcosa di buono. Allora Filippo però ha sentito raccontare da Giovanni ed Andrea cosa gli ha detto Gesù nel primo incontro. E cosa gli ha detto? Non gli ha fatto grandi discorsi. Gli ha detto: venite a casa mia, venite e vedrete. Dove abito? Venite. E come si sta bene insieme? Lo vedrete. E allora Filippo, di fronte a queste obiezioni di Natanaele, gli risponde: vieni e vedi. Hai imparato, no? Hai imparato da Gesù proprio il metodo, hai imparato poche storie, poche discussioni, poche argomentazioni, pochi ragionamenti. Vieni a vedere con i tuoi occhi, no? Tocca con le tue mani. E questo Gesù lo fa quando è risorto. Prende la mano di Tommaso, come c'è in quel quadro famoso di Caravaggio, prende la mano di Tommaso e infila dentro alla ferita del costato, no? Tommaso, incredulo, diventa credente. Cioè, Gesù fa vedere, fa toccare con mano, cioè, la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Si mangia addirittura, no? Quello che fa Gesù. Quindi, anche quando appare dopo la risurrezione, addirittura accende il fuoco, la brace, poi abbrustolisce il pesce, glielo dà da mangiare prima ancora che loro arrivino con il pesce pescato. Così, guardate, toccatemi, vedete che io non sono un fantasma, perché... Allora, Filippo ha imparato questo metodo molto interessante e noi vogliamo imparare da lui, per cui di fatto a volte Gesù si fa presente attraverso la vostra amicizia, cioè ciascuno di voi, ogni cristiano è Gesù che passa, Gesù, e quindi gli altri lo possono conoscere attraverso la vostra amicizia. È vero anche che si va a conoscere a volte attraverso quella dimensione di famiglia che ha la Chiesa in vari modi, cioè che ha il fatto che il ritrovarsi di persone, come avrete avuto voi l'esperienza della GMG, cioè molte persone vengono alla GMG e fanno un'esperienza di Chiesa impressionante, bellissima, universale, internazionale, e colgono un qualcosa di speciale. Lì è presente Gesù in un modo straordinario, è presente lo Spirito Santo attraverso le persone che si vogliono bene, che hanno la stessa fede, magari parlano lingue diverse, ma si capiscono, a volte perché sanno l'inglese, diciamo così, ma altre volte perché ci si capisce, perché abbiamo lo stesso amore e la stessa fede. Allora, e probabilmente molte persone hanno capito questo venendo, no? Andando alla GMG, facendo l'esperienza. È difficile raccontarla, un po' si può raccontare le immagini, i filmini, però è stando che si sperimenta questo amore semplice, grande, familiare, e dei credenti che proprio perché amano Gesù e si sanno amati da Lui, riescono ad amarsi tra di loro come Lui ci ha amato. E questo lo si sperimenta così, venendo e vedendo. Vedendo vuol dire tante cose, fare insieme tante cose belle e importanti, no? E infatti lui va, si fida, va da Gesù e viene folgorato anche lui, più ancora che Pietro, no? Perché Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. E Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù, che potrebbe essere anche con l'esclamativo: come mi conosci? No, in realtà questa è una lode, per cui lui sarà stato un po' imbarazzato da questa lode così bella. E Gesù gli risponde: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. E gli replicò Natanael: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. E poi che cosa vuol dire questa cosa qua? In realtà non lo sappiamo. Cioè lo sa solo Natanael, capite? Che è una cosa che è un qualcosa, qualcuno dice stava pregando perché era tipico dei maestri mettersi all'ombra, no? Di queste foglie grandi, avere il fresco e così pregare o meditare, non lo sappiamo però. Gesù dice a Natanaele una cosa che lui dice: tu e io ci capiamo, gli altri non lo sanno e non glielo diciamo nemmeno. È bellissima che nel Vangelo ci sia una frase che capiscono solo loro due. Allora io direi che a questo punto noi concludiamo la nostra meditazione, felici di aver scoperto, riscoperto, rivisitato un po' gli inizi dell'incontro di Gesù con i suoi discepoli, con uomini e poi anche donne, che anche se non sono citate qui, subito ci sono anche delle donne che lo seguono, e chiediamo a Gesù, alla Madonna che sicuramente ha preparato quella merenda quel giorno, sicuramente o probabilmente, ai suoi apostoli che hanno avuto quell'esperienza così bella, così forte, così grande, che ci aiuti a cominciare anche noi il nostro anno di amicizia, di studio, di lavoro, di volontariato, di preghiera.